La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Ehi, ma che c'è, fretta di andarti? Ma non ti piace stare qua? Sempre la stessa scena. Ma c'è qualcuno che ti aspetta? Un fidanzato, qualche cosa? No. Dimmi una curiosità, Tropè. Ma c'è qualche cosa che ti appassiona? Filmare. Ah. Filmare proprio... mi piace. Mi piace filmare. Quando lavoro al circolo dei miei, mi capita di sentire le chiacchiere dei vecchi che giocano alle carte. E allora ci sono quelli che parlano del tempo. Eh? E quelli che raccontano le storie. Cose che gli sono successe da giovani, che ne so. E devi vedere come se le ricordano. Gli si illuminano gli occhi. A quelli che parlano del tempo, invece, gli occhi non li si illuminano mai. Senti, Tropeo, so che ti dico. Che io da vecchio mi vedo con i nipotini miei che gli racconto le storie. Tipo di quando ho incontrato quattro tizi che stavano attraversando a piedi la Basilicata. E se avessi potuto, l'avrei attraversato pure io. Questa è la prima volta di un ragazzo che voleva avere ricordi da consegnare ai nipotini. Questa è la prima volta di Rocco Papaleo. Per molti anni è l'attore che recita come Spalla nei film di Pieraccioni. Di lui si sa poco, è un personaggio dall'aria buffa, ma non è ancora emerso con tutto il suo talento. Classe 1958, a un certo punto questo attore lucano manda in sala un film. Si chiama Basilicata Coast to Coast. È un film che alla gente piacerà moltissimo, ma non alla critica. Però è quello il vero inizio di Papaleo. Secondo me invece la critica non è che lo ha proprio... No, io parlo della critica scritta, perché recentemente proprio... Adesso ho fatto un altro film, no? E mi sono andato a riguardare le recensioni di Basilicata, anche per capire un po' che cosa c'era scritto. E non è che sono tutte veramente belle. Diciamo, fu un film anche accolto, penso anche giustamente, in fondo, con un po' di sufficienza dalla critica. E il film poi si è guadagnato un carisma... con l'esito popolare e con il fatto che poi quando un film di primo acchitto non è convincente al 100% ha bisogno, come è stato per Basilicata, di un lungo viaggio attraverso la gente che l'ha visto tante persone, e quindi si è guadagnato anche un carisma e quindi dei premi della critica. Che però sono venuti in un secondo momento, secondo una giustizia anche, perché in fondo appena visto, lo capisco anche, che se non, uno non si lascia andare veramente a percepirlo con leggerezza e sincerità, diciamo, no? È un film che può essere anche un po' mieloso per certi versi, no? Quindi può anche irritare una certa critica, che invece ha bisogno di più acidità per scatenarsi nelle sue comunque esternazioni entusiastiche. E se domani io non potessi rivedere te? Mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me. Quello di Papaleo è una storia simile a quella di tanti ragazzi della sua generazione. A una certa età, quando i sogni fremono in tasca, il ragazzo ha bisogno di allontanarsi da casa e, lasciando il sud, spera che da qualche parte i suoi desideri si realizzino. Così arriva a Roma, giovane, simpatico, un po' timido. A Roma studia matematica, dice, ma senza successo. Però a Roma si iscrive a una scuola di recitazione. È il teatro, ma anche la musica, ad appassionare Papaleo, che poi si esibirà in pubblico con questa formula. Il teatro canzone è il filo rosso dello spettacolo che va in scena fino al 31 dicembre a Roma al Teatro Ambra Giovinelli. Si tratta di uno spettacolo di teatro canzone, e cioè quella forma di spettacolo che alterna racconti canzoni, i racconti sono contrappuntati dalla musica, è tutto un lavoro, insomma, come delle parole su una partitura musicale, tutto sommato. E questo qui è l'ultimo della serie di spettacoli che faccio da più o meno una ventina d'anni di questa forma, ed è uno spettacolo che ho portato in scena l'anno scorso e quest'anno lo ripropongo un po' evoluto. Ecco, lei è una ventina d'anni, come ha detto lei stesso, che propone questa forma artistica che è in qualche modo una fusione tra la musica, la comicità, la teatralità proprio da palcoscenico. Da cosa nasce, insomma, tutto questo lavoro, tutto questo rimestare in tutte queste arti? Ma probabilmente perché... Ma intanto direi che mi sembra che siano tutte cose connesse tra di loro, con una vera continuità, diciamo, tra una cosa e l'altra, la musica, il teatro, lo stesso cinema, è tutto comunque, come dire, complementare, e si nutrono un po' a vicenda. Nel mio caso probabilmente la cosa può avere un'origine nella mia provenienza di strimpellatore di chitarra fin dai tempi del liceo, insomma, e da lì mi è partito tutto, e quindi ho sviluppato, diciamo, negli anni l'idea di scrivere canzoni, e ne ho scritte tante, e penso che proprio la scrittura delle canzoni in fondo, no, è stata la cosa che mi ha dato poi un atteggiamento e una direzione in tutte le altre cose che ho fatto. Lei, da come si racconta, da quello che noi abbiamo visto anche da spettatori, non nasce con un desiderio fortissimo di diventare, di sfondare, di diventare, insomma, un protagonista della scena del cinema italiano, eppure lentamente si è proprio ricavato un suo spazio, è molto apprezzato, ha avuto dei successi incredibili. Quello che le voglio chiedere è quando e come è iniziata la sua carriera di attore? Ma la mia carriera di attore è cominciata nel modo più normale possibile. Ho fatto una scuola di recitazione ai tempi e da lì, diciamo, è cominciato un percorso, ora dico di ricerca, non per darmi un tono, ma per dire che mi sono messo a cercare, diciamo, un apprendistato, un apprendimento, e ho fatto tanti lavori, tantissimi, diciamo, proprio ho avuto la fortuna della continuità, e quindi ho sempre lavorato, diciamo, con anche con un certo trasporto, passando dal teatro alla televisione, al cinema, dalle serate con una cantante e le ballerine, diciamo, esperienze molto apparentemente distanti, no? Però sempre in un certo senso così ricche di esperienze, di situazioni, e quindi, diciamo così, ho fatto sempre un po' buttato nel calderone tutto quanto, e di volta in volta, senza avere niente di troppo precostituito, cerco di affrontare quello che devo fare in un modo anche un po' infantile a volte. Va bene, confesso, sono nato in Basilicata. Sì, la Basilicata esiste. Esiste. È un po' come il concetto di Dio. Ci credi o non ci credi? Io credo nella Basilicata. Una grande Basilicata, una Basilicata che estende i suoi confini fino a Foggia, fino a Salerno. Una Basilicata grandi pascoli, perché la Basilicata ha bisogno di orologi, ha bisogno di mucche, ha bisogno di cioccolato, altrimenti non sarà mai la Svizzera del Sud. Dice la Basilicata. La Basilicata è stanca delle sue incongruenze. La Basilicata si sta chiedendo, perché la Basilicata è una regione riflessiva, una regione che ragiona, la Basilicata si sta chiedendo: ma come mai in una regione dove la DC è sempre stata oltre il 40%, non c'è la mafia. Ma dateci la nostra fetta di mafia! Ba, ba, passo della cheta, ba, ba, passo della cheta. Comico, cabarettista, attore di cinema e teatro, autore, musicista e regista, Rocco Papaleo è un ragazzo lucano, arrivato a Roma con la voglia di imparare un mestiere, e riesce a farlo. Nel 1985 gli esordi in teatro, al cinema invece compare per la prima volta in Senza pelle, di Alessandro Dall'Atri, ma il vero esordio, come racconta lo stesso Papaleo, avviene tanti anni prima. E quindi ho sempre lavorato, diciamo, con anche con un certo trasporto, passando dal teatro alla televisione, al cinema, dalle serate con una cantante e le ballerine, diciamo esperienze molto apparentemente distanti, no? Però sempre in un certo senso così ricche di esperienze, di situazioni, e quindi diciamo così ho fatto sempre un po' buttato nel calderone tutto quanto e di volta in volta, senza avere niente di troppo precostituito, cerco di affrontare quello che devo fare in un modo anche un po' infantile a volte. E appunto, tornando però a questa cosa dell'infanzia, cioè lei come sogno aveva quello di fare questo, di fare l'attore quando era in Basilicata, piccolo? No, sinceramente no, nel senso che comunque non avevo una vocazione cosciente, e la mia idea, diciamo, principale era più così, di trovare un lavoro, cioè non avevo proprio, come ti posso dire, l'ambizione di fare un lavoro appassionante. Pensavo che il lavoro era il lavoro e gli hobby e le passioni erano altre, non pensavo che potessi tirar fuori un'occupazione da anche una piccola verve che avevo di simpatia in famiglia. Facevo delle canzoncine a Natale registrate in un registratore geloso, quelle a bobine, diciamo, no? Che, vabbè, insomma, tu sei giovane, non te lo ricordi. Vabbè, insomma, ma la sto facendo lunga? No, no, era bella invece, come, cioè, e quindi in famiglia era, lei era quello simpatico, il bambino, quello che faceva lì? Sì, sì, diciamo, vivace. Parlo delle riunioni natalizie con tutta la famiglia, i fratelli, sì, sì, mio padre, di mia madre, insomma. C'erano questi nataloni, c'era uno zio che aveva questo registratore geloso e registravamo delle cose che ho anche risentito poi da grande. E facevano ridere? Beh, sinceramente a me sì, perché comunque mi era, come dire, una comicità molto casalinga, riferita a pregi e difetti dei miei parenti. Ironizzavo molto su mio padre, che comunque stava molto al gioco, pur essendo una persona apparentemente severa e seria, invece io lo prendevo molto in giro, non lo so, ora c'è la prima volta che penso a questa cosa, che in fondo c'era una confidenza in casa con i miei genitori e anche però una distanza, diciamo, di severità, non so se io con mio figlio riesco ad essere così. Cioè, se lei dovesse individuare una prima volta nella sua vita, cioè potrebbe essere quella, non so, ad esempio più personale, della nascita di suo figlio, oppure il fatto che ha fatto il regista di un film, o la prima volta che ha recitato, o insomma, se ne ricorda una in particolare che in qualche modo ha modificato il corso della sua vita? Beh, tutte queste che hai nominato lo hanno fatto, diciamo, e tutte queste prime volte, quando è nato mio figlio, quando ho recitato la prima volta, quando ho fatto il mio primo film per il momento unico, come figlio e come tutto. Quando ho fatto queste cose uniche, la vita ha preso un'altra piega, certamente. Ma quello che l'ha emozionata di più di tutti come momento, se ce n'è uno? Beh, sinceramente figlio, diciamo, è stata la cosa che è tuttora la cosa che più, diciamo, mi rapisce completamente, cioè anche in un modo irrazionale, diciamo, ecco, emotivamente molto forte, l'idea della paternità. Quanti anni ha suo figlio? 14 anni. Per il momento, diciamo, non siamo in conflitto, anzi, per un momento, beh, di confidenza, però abbastanza non problematico, ecco. La prima volta termina qui. Grazie a tutti per l'attenzione. Ci risentiamo domenica prossima, sempre attorno alle 13. Ci trovate su Facebook, potete riascoltarci in podcast e scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli. Sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare, so far ridere la gente, meno male. Non ho fatto il militare, sì, meno male, sai che risate. C'è chi non conosce Dante, che c'ha tutto da imparare, chi è felice quando piange, chi si veste da soldato a carnevale. Io mi nascondo tra la gente, sì, a carnevale. Non so che fare tu, vestita da bambina, prigioniera vuoi scappare da una perfida regina, così seria da star male, non so dirti una parola, non ho niente di speciale, se ridi poi vuol dire che una cosa la so fare, se mi lancio in una aiuola casco e non mi faccio. Ma è l'occhio ride ma ti piange il cuore, sei così bella ma vorresti morire. Sognavi di essere trovata su una spiaggia di corallo una mattina dal figlio di un pirata. Chissà perché ti sei svegliata. Si rincorrono i ricordi come cani in un cortile, tu nemmeno te ne accorgi. Adesso vorrei farti innamorare, ma ti prego non andare, se puoi rimani fino a domani qui. Vestita da bambina, prigioniera vuoi scappare da una perfida regina, il tuo principe immortale, non so dirti una parola, non ho niente di speciale, ma se ridi poi vuol dire che una cosa la so fare, se mi lancio in una aiuola casco e non mi faccio. E l'occhio ride ma ti piange il cuore, sei così bella ma vorresti morire. Sognavi di essere trovata su una spiaggia di corallo una mattina dal figlio di un pirata. Chissà perché ti sei svegliata. Piange il cuore, sei così bella ma vorresti sparire, in mezzo a tutte queste facce, come se con te sparisse anche il dolore, senza lasciare tracce. E l'occhio ride ma ti piange il cuore, sognavi di essere trovata su una spiaggia di corallo.